Ed eccolo qua, il voltiamo pagina di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023, quindi a ridosso di una nuova edizione per quanto riguarda il Premio Pellegrino 2023. Già dalla prossima puntata, nel corso della settimana, presenteremo magari la cinquina mia e la cinquina di Silvia Albertazzi, che stiamo aspettando. Aveva del resto avvisata, quindi la prof è quanto mai giustificata questo leggerissimo ritardo in redazione per la rubrica letteraria dei 103.1. un impegno l'ha portata insomma ad arrivare un pochettino dopo. Siamo qui e la stiamo aspettando. Intanto inizio io con la pubblicazione odierna. Parliamo di Iperborea, con questo formato particolare ispirato dal mattone per la costruzione edilizia finlandese, in quanto l'idea di portare con ogni libro un mattoncino per costruire, beh, direi che è motivo di ispirazione. Anche un'idea originale. In questo caso Iperborea non è esattamente al nord, come di solito fa ricerca dall'Islanda alla Scandinavia, Finlandia e oltre. Questa volta siamo in una parte, permettetemi, meridionale, se così si può definire. Però abbiamo una grande voce della letteratura, il mio scrittore olandese preferito insieme a Gerard Rev, Jan Brocken. Di Jan Brocken leggete tutto, ecco perché ho voluto portare questo suo ultimo lavoro, la suite di Java, edizioni Iperborea. Jan Brocken è presentato con Il giardino dei cosacchi, con I giusti, con La casa del pianista, che ha dei chiari riferimenti nella suite di Java con un musicista, Godowski, musicista baltico appunto. C'è anche un altro lavoro sulle realtà baltiche di Jan Brocken, ma avremo modo di parlarne. Volevo portare tutta la bibliografia Iperborea di Brocken, ma non posso metterla in palio certamente, mentre invece grazie a Libreria Ubik la suite di Java di Jan Brocken assolutamente è per voi. Intanto Brocken si mette alla prova con qualcosa di molto personale, definita autobiografia familiare, ma nello stesso tempo biografia di un personaggio legatissimo ovviamente e protagonista nella famiglia Brocken. Facciamo un salto indietro, siamo in Indonesia, la suite di Java, del resto il titolo già ci fa intuire questo luogo geografico, e come ben sapete, periodo coloniale, l'Indonesia è stata una colonia olandese. La famiglia si trasferisce, passa diversi anni in Indonesia, e qui ci sarà un motivo molto particolare per fare indagine dallo stesso autore Jan Brocken a quelli che sono stati i momenti della protagonista. Ebbene sì, la protagonista è la madre. Ecco, non immaginiamo qualcosa che ci fa cadere nel sentimentalismo sfrenato, anzi non la chiama quasi mai mia madre o fa riferimenti troppo espliciti, la chiama per nome, la chiama Olga. Beh, questa vita riportata in un paese travagliato, i conflitti, l'Indonesia ha vissuto dei momenti tremendi, fra l'altro siamo nel 1935. Ritornerà la famiglia in Olanda dopo la seconda guerra mondiale nel 1949, e questi anni insomma vissuti, dove poi tra l'altro arriverà anche il piccolo Jan, verranno ripescati grazie a un epistolario ritrovato che darà motivo, e di cui ne parleremo tra poco con che modalità, di essere riportato in questa suite di Java. Intanto musica con Biblio e poi rientriamo con il lavoro Iperborea, uno dei libri della settimana per il Voltiamo Pagina. A tra poco! Thank you. 1949, anno dell'indipendenza dell'Indonesia, si chiamava Orto Botanico Nazionale di Buitenzorg. Ne ho sentito parlare qualche volta dai miei genitori, anche se non molto spesso, perché volevano evitare di cedere all'impossibile rimpianto di ciò che non c'era più. All'inizio del loro soggiorno nelle Indie Orientali, durato 15 anni, trascorrevano alternativamente 5 mesi a Batavia e 6 settimane a Buitenzorg, dato che si trova a 300 metri di altitudine. Buitenzorg era significativamente più fresca di Batavia, anche se l'aria era umida e le piogge e i temporali molto frequenti. La natura era di una magnificenza travolgente. Che scrittore è Brocken? È uno scrittore musicale, io lo definisco molto molto armonico, musicale, ha un tono, ha una frequenza, ha l'idea di dare immediatamente qualcosa di più profondo oltre che le lettere, le parole, le frasi e i pensieri, dà l'idea della musica, di qualcosa che con una continuità in note, del resto la musica è presentissima in questo lavoro, la suite di Java con il pianista Godowsky, il pianista che andrà a incrociare nelle lettere la protagonista Olga, la madre di Jan Brocken poi, e non cediamo neanche al pensiero che un lavoro autobiografico, familiare, biografico per la suite di Java è per così dire qualcosa di attinente a un aspetto cronachistico della situazione, tutt'altro, in quanto certo vi sono dei frammenti tratti da questi epistolari, lettere ritrovate che riportano quegli anni nelle Indie Orientali per la famiglia Brocken, ma vengono messe assieme con quello che è più attinente definire biografia romanzata. In questo punto vi è il grande talento di Jan Brocken, la capacità di mantenere veridicità ma al contempo fantasia e struttura letterale armonica nel lavoro che viene raccontato al lettore attento, perché è uno dei miei scrittori preferiti, intanto perché non mette tanti personaggi, come ben sapete, come ogni persona alta ho un po' di difficoltà nel seguire attentamente gli intrecci e le trame molto ordite, preferisco un sentimento, preferisco un sentore, preferisco un aroma letterario, qualcosa che mi dia quella micro macro sensazione di bella scrittura, nel caso di Jan Brocken molto bella scrittura. Nella suite di Java troviamo tutto ciò, troviamo uno spaccato di vita in un territorio contrastato, in un territorio che ha vissuto mille difficoltà, tremenda l'indipendenza di Java e dell'Indonesia è stata cruenta al massimo, il paese che conta un aspetto musulmano di presenza veramente molto forte e molto integralista. Ovviamente nella storia dell'Indonesia presente anche la CIA e gli Stati Uniti d'America, che hanno contribuito con una repressione fortissima. C'era un movimento comunista in Indonesia molto presente e anche molto concreto. Quello che nella storia dell'Indonesia o nelle Indie Orientali possiamo ritrovare, oltre che il danno nefasto del colonialismo, è anche qualcosa che dà un'idea geografica di una bellezza immensa, di una donna estremamente così forte nella sua normalità che sarà poi madre di Jan Brocken, e così viene raccontata senza cedere a sentimentalismi ma restando molto vicino a una figura diversamente normale. Ecco, mi piace riportare questo termine, che con la sua forza ha avuto modo di innamorarsi, di avere passioni, di avere percorsi di vita con la musica stessa, con la bellezza della natura e con un racconto che ci viene riportato con questo lavoro di Iperborea. Vedi Jan, tua madre è stata l'unica che ha avuto il coraggio di volare via come un uccello. E io da quel momento notai che gli uccelli non si girano mai indietro quando volano via. Anni della prigionia, la guerra, loro, la famiglia è stata prigioniera, la casa devastata, ovviamente essendo nelle Indie orientali in quella zona vengono fatti prigionieri nella seconda guerra mondiale dall'esercito giapponese, le difficoltà nel passaggio tra una situazione non dico edulcorata ma di quotidianità con gli appunti di questi due intellettuali, con la ricerca per diverse pubblicazioni dal padre di Jan Brock. Allo stesso tempo la musica per Olga, la madre, improvvisamente quello che invece diventa una tragica detenzione da parte dell'esercito giapponese nella seconda guerra mondiale. Tutto ciò e diversi momenti che vengono raccontati con grandissima spontaneità. È uno scrittore molto spontaneo e nello stesso tempo dotato di quella che io ricerco nelle parole di un autore, cioè una signorina letteraria. Questo per me lo sanno ascoltatrici e ascoltatori e per la prima volta farò un quiz legato a una grande passione degli olandesi e non solo ovviamente, ma una grandissima passione pur non ottenendo grandi risultati nelle competizioni mondiali. Maglia arancio dell'Olanda ha sempre destato grande fascino, negli anni 70 poi tra l'altro si vedeva l'Olanda anche come una meta moderna, un aspetto libertino e libertario, non è esattamente così, però insomma abbiamo avuto un immaginario molto particolare che è arrivato anche in tutta Europa. Allora, tada, un quiz calcistico sull'Olanda, wow! Perché è stato un regalo che mi fece il mio povero papà. Chiaramente io non ero appassionato di calcio, lui conosceva un po' di più, ma è il pensiero che conta e anche conoscere questo personaggio, chi è stato il più grande calciatore olandese. Sto parlando degli anni 70, sto parlando anche di inizio anni 80, non ha giocato solo in Olanda, il più grande calciatore olandese, questi capelli lunghi, questo talento, per avere la suite di Java di Jan Brocken, me lo scrivete al 333-180-9494. La premiazione dopo la pubblicità. It's All Coming Around, il brano che vi sto proponendo di Patsy Gallant, e tra pochissimo pubblicità, poi si ritorna in diretta con il Voltiamo Pagina. Jan Brocken, la suite di Java, ultimo lavoro per Iperborea. Where did I come? am I here for? Where am I going? Torno in diretta nell'immediato, a breve avremo Silvia Albertazzi per una partecipazione telefonica e per questo mercoledì 6 dicembre. Prima la premiazione per la suite di Java, Cruyff, il magico numero 14, ma non gareggio, non potevo però trattenermi. Grazie Sergio, ho pensato anche a te. L'Olanda e il calcio totale, l'anticamera di quello che sarà il gioco a zone pressing continuo, anche con fidanzati e mogli in ritiro, vi dicevano l'immaginario dell'Olanda libertina. Grazie Sergio. Marina scrive: Gullit, grandissimo giocatore, ma non è il protagonista descritto. Anni 70 ho citato. Una risposta anonima arriva, anche seppur giusta, Johan Cruyff, Dino dalla Bolognina. Non è sicuro sull'aver scritto bene il nome del grande campione. In effetti non l'hai scritto bene, ma non è un problema. Io ti ringrazio tantissimo per l'attenzione. Silvia che dice: siamo ingorgati nel traffico, tra poco ti chiamo. Silvia, arriva anche un Van Basten, giocatore fenomenale. Di calcio non sono certo un appassionato, ma Van Basten è molto simile a un Larry Bird nel basket, nel calcio ovviamente, il campione olandese che poi abbiamo visto anche in Italia. E intanto Sabina aggiunge: avevo un compagno di banco olandese alle superiori e quindi insomma ti ha informato su questa storia. E in più adoro Brocken, mi ha accompagnato sulla Transiberiana. E poi aggiungo che è molto nelle tue corde questa narrazione letteraria. Aggiungo anche Giovanna, che è arrivata a rispondere in maniera giusta: Johan Cruyff, il nostro supercampione Andrea, si colloca al secondo posto, ma non finisce qui, perché abbiamo invece in un'altra piattaforma Jarno da Calderara Cruyff e anche Francesco risponde esattamente. Io non ho 10 copie della suite di Java, mi dispiace, però vi ringrazio tantissimo. Al primo posto arriva, e ne sono ben contento che sia stata un'ascoltatrice a portarsi a casa questo lavoro per arricchire la sua biblioteca, Giovanna, puoi andare alla biblioteca, anzi nella tua biblioteca per aggiungere il volume, ma alla libreria Ubik di Viernerio 27 per la suite di Java di Jan Brocken. Complimenti Giovanna. Abbiamo i potenti mezzi per una diretta telefonica. È arrivata, seppur telefonicamente parlando, la nostra Silvia. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno Silvia. Buongiorno, vabbè, in un minuto e mezzo, due, sono arrivata anche fisicamente comunque. Ah, ci sei, allora tu puoi entrare in diretta. Intanto puoi dire telefonicamente il lavoro che a breve presenterai dal vivo. Belle queste sorprese di cambio telefonica, diretta in presenza. Bellissimo. No, senti, vabbè, lasciamo stare, è stata una mattina di imprevisti totali. Okay. A cominciare dall'infermiera alle prime armi che mi ha fatto la iniezione e ti ha spaccato un braccio praticamente. 11 provette, hai mai sentito una roba del genere? Vero, ma riesci a stare in piedi oppure hai bisogno ti porto non so qualcosa? Ok. Beh, poi abbiamo trovato di tutto sulla strada, persino una signora che spingeva tre cariolini del supermercato in mezzo alla strada. Che bella quotidianità, che bello spaccato di quotidianità, dai. Allora, sai, vabbè, che facciamo? Comunque, ti metto un brano musicale qua. E poi... Aspetta un attimo, io sono qua però la porta è chiusa, se mi vieni a aprire... Arrivo, a tra poco! Ok, a tra poco. Come per magia, non è un film di Harry Potter. Tu, tra l'altro, assomigli a un insegnante in Harry Potter, Silvia. Sì. Potter in persona. Qui in diretta, Silvia Albertazzi. Finalmente ci salutiamo di persona dal vivo per il Voltiamo Pagina. Allora, nonostante queste traversie dovute anche all'inesperienza per quanto riguarda il personale sanitario, che però salutiamo, sì, certamente, sì, certo. Anzi, ci mancherebbe. E intanto, allora, visto che hai portato anche un brano per commento musicale alla tua presentazione, oggi ci parlerai in questi 10 minuti di... Dunque, di un libro di Patrick Modiano, edito da Einaudi, che si intitola La strada per Chartreuse. È un libro che io ho letto l'anno scorso in originale, quindi ce l'ho con me, ma in originale. E non puoi metterlo in palio, no, hai detto. Non okay. Lo metto in palio. Posso mettere in palio un libro, misterioso, però. Ok. E c'ho anche quello della settimana scorsa. Benissimo. Allora, torniamo a Modiano. Modiano è uno dei miei autori favoriti. Io di lui leggo tutto. Però non direi agli ascoltatori e alle ascoltatrici di lui leggete tutto, perché direi prima leggetelo, poi vedete se vi piace. Se vi piace. Perché è un autore molto particolare, in quanto si potrebbe dire che scrive sempre lo stesso romanzo. Però lo scrive talmente bene che io personalmente sono affascinata. I romanzi di Modiano rigirano sempre intorno alla sua educazione sentimentale, alla sua infanzia abbastanza travagliata in collegio con questi genitori che l'avevano un pochino trascurato molto, e al fatto che fin da giovane, giovanissimo, si è trovato a vivere solo e a crearsi un'esistenza da solo. Per cui nei suoi romanzi trovi sempre dei personaggi che hanno di queste situazioni, delle infanzie particolari, con dei surrogati di genitori o in collegio, roba del genere, e poi che fin da ragazzini, 16, 17 anni, vivono da soli e si fanno bene o male le loro esperienze. E in questo caso, nella strada per Chartreuse, c'è questo signore arrivato oramai oltre la settantina, quindi età di Modiano appunto, che ricorda un episodio della sua giovinezza quando gli capitò, insieme a delle signore che conosceva, di andare a vedere una casa che vendevano in questo paesino sulla strada per Chartreuse, che è un paesino vicino a Parigi, e ricordare che questa casa gli ricordava qualcosa della sua infanzia che forse aveva rimosso, che non sapeva bene cos'era. Da lì parte un ricordo di infanzia che è poi legato, che per uno strano caso, quelle coincidenze che capitano nella vita, è legato anche a un altro luogo, questa volta in Parigi, dove lo portano queste persone, dove ritrova della gente che forse ha conosciuto nell'infanzia, ed è questa casa, questo appartamento, dove lui ricorda che forse si svolgevano la sera delle riunioni un po' strane, insomma, dove forse è successo qualcosa. E allora si rende conto che da giovane queste persone forse l'avevano portato apposta in questi luoghi perché pensavano che lui sapesse un segreto nascosto in questa casa. E qui c'è tutto, l'abilità dello scrittore consiste nel far quadrare, diciamo, far combaciare la narrazione che si svolge al presente, che è la narrazione di un uomo, non direi adulto, ma proprio anziano, che ricorda tanto, che ricorda la sua giovinezza, anche lui è un ragazzo solo, 18-19enne, che vive solo, che si sta creando la sua vita da solo e che è una facile preda di persone che possono approfittarsi di lui, e questo ragazzo 18-19enne che ha queste sensazioni di ritorno del tempo passato molto prustiane di quando era bambino, quindi c'è questo intersecarsi di memorie che è veramente molto molto affascinante. Modiano è bravissimo a creare questi scambi di temporali, diciamo, ed è bravissimo anche a lavorare sui luoghi. Lui veramente è uno di quegli scrittori che ti fanno capire che certe volte sono i luoghi che raccontano le storie invece dei personaggi. Bello, molto bello. Ricorda anche, anzi hai aggiunto una caratteristica dell'autore che ho appena presentato. Nelle tue parole ho trovato un binario parallelo fra questi due autori. Quindi aggiungo, non è per così egoismo che ti chiedo, dalle tue parole mi potrebbe piacere... Non lo so, forse sì, perché io quando ho letto questo libro avrei usato per descrivere come lui ritrova questo tempo perduto, che poi lo ritrova a tratti, non nitidamente, avrei parlato di microsensazioni. Hai capito. Io penso, che... potrebbe anche piacerti, sì. Bene, allora, autore, titolo, anche se non è in palio, noi precisiamo comunque quello che è stato appena presentato. Dunque, autore Patrick Modiano, titolo La strada per Chartreuse, editore Einaudi. Musica, hai trovato un brano a tema, sei riuscito, sì, a portare una piccola playlist. Spiegarlo perché, per chi non capisce il francese, credo che sia l'unico brano esistente dedicato e esclusivo a uno scrittore. Il brano si intitola Les Baisers Modiano, è di Vincent Delerme ed è la storia di due ragazzi che una sera verso mezzanotte vedono da lontano la silhouette di un uomo molto alto con un impermeabile e capiscono che è lo scrittore Patrick Modiano. Non è William Piana. E il ragazzo è molto alto veramente Modiano. Il ragazzo ricorda che Patrick Modiano, che al suo esame di maturità il tema era su Patrick Modiano. E dopodiché, dopo questo ricordo, bacia la sua ragazza e dice, e il bacio che è seguito io lo chiamo bacio Modiano. Infatti è il brano, tra l'altro. Il quiz lo abbiamo 2 minuti, riusciamo secondo me al 333. È molto semplice. 9, Modiano ovviamente è un cognome di origine italiana. Ecco, io vorrei che i nostri ascoltatori e ascoltatrici mi dicessero che cosa gli ricorda. C'è una cosa, un oggetto. A me tanto! A un me oggetto, è una mia passione! Che si chiama Modiano. Che cosa, Modiano! A che cosa sto pensando? È una mia passione! Brava Silvia! 333-180-9494! Près du métro, nous Nous avons croisé Modiano le soir où tu ne voulais pas croire que c'était lui sur le trottoir. Le soir où j'avais dit tu vois la fille juste en face du tabac. Tu vois le type derrière de dos. En un père gris c'est Modiano. C'est le soir où nous avons pris des mojitos jusqu'à minuit. Le soir où tu as répété. Peut-être il habite le quartier. Le soir où nous sommes revenus en dévisageant toute la rue, en cherchant derrière les carreaux. Io vi posso dire che l'azienda concorrente è la Dal Negro di Treviso, ecco, la Modiano sono le carte da gioco. Complimenti Sabina, hai risposto immediatamente, ma tante e tanti hanno risposto, da Andrea, Luigi e anche su piattaforme ben diverse, carte da gioco, Lorenzo, i francobolli e le monete, dice Francesco. Magari si occupano anche di quello, ma non sapevo. No, Sabina, questa volta, però veramente grazie a tutte e a tutti. Da oggi pomeriggio disponibili per voi alla UBIC, libreria di Via Ernerio 27. Bella la canzone, ma bella la storia che va a raccontare. Sì. Sì. E quindi libro misterioso per Sabina. Noi dobbiamo salutarci, Silvia, io ti ringrazio per questi 10 minuti. Seguirà il video di presentazione. No, non segue oggi. Non glielo fai il video? No, perché oggi c'ha l'impegno con Pinocchio. Colpa di Alfredo, come la famosa canzone. Avremo modo comunque. Beh, un buon ascolto sulle frequenze di Radio Città Fujiko. Domani colazione alle ore 7 con il Breakfast Club. Grazie Silvia. Ciao. Grazie a te. Ciao a tutte. Ciao a tutte e tutti. Grazie a voi. E il baiser qui a suivi sous les réverbères, sous la pluie, devant les